che quello che stavamo facendo di sicuro non avrebbe cambiato il mondo. Eppure tutti si prendevano terribilmente sul serio. Che io lo so che qualunque cosa tu faccia, un senso gliela devi trovare per forza. Però gli sembrava che tutti i destini delle persone che erano su quel palco dipendessero solo da quello. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e 7 minuti, quasi 8. Questa è Radio 24. Sono Matteo Caccia e sono qui. Qualche anno fa ho fatto uno spettacolo per il Teatro Nuovo di Napoli. Il Teatro Nuovo di Napoli si trova nel cuore dei quartieri spagnoli, proprio nella parte più vecchia della città. È un luogo strano perché durante lo spettacolo si sentono le persone che si chiamano dalle finestre fuori, sulla strada, oppure i motorini che passano nei vicoli. Quando ci entri hai sempre la sensazione di essere in un luogo in cui potrebbe succedere di tutto. Ci provammo uno spettacolo per un mese intero, con la convinzione di essere lì per salvare il mondo, ovviamente, con la convinzione che hanno tutte le persone che lavorano in teatro. Il giorno del debutto passò a trovarci il direttore. Si chiamava e si chiama tuttora Angelo. È un signore con una bella faccia da marinaio. È un signore che quel posto, insieme a sua moglie, l'ha creato e ci lavora tutti i giorni, da più di 20 anni. Lui è uno che ha lottato per creare quel posto e lotta tutti i giorni perché quel posto continui ad esserci, perché lì dentro continuano ad accadere delle cose, perché ci sia un pubblico e perché il quartiere intorno possa in qualche modo beneficiare della presenza di un posto come quello. Insomma, poche ore prima del debutto, Angelo, il direttore, quello che aveva chiamato il regista, quello che aveva messo insieme la compagnia, quello che aveva voluto che quello spettacolo fosse messo in scena, venne a trovarci nei camerini e si accorse dell'eccessiva tensione, dell'eccessiva serietà con cui stavamo prendendo la cosa. E quindi lui disse una frase, mezza in italiano e mezza in napoletano, che per me è diventata una specie di mantra che io applico a qualsiasi lavoro faccia. La frase era questa qui: ragazzi, ricordatevi che un teatro non serve e scarpe servono, il teatro no. Ecco perché oggi mi piacerebbe che tutti quanti si mettessero una mano sul cuore e l'altra sul libretto del lavoro e ammettessero: sì, in fondo il mio lavoro è inutile. E mi piace un po' anche per quello. Mi piacerebbe che lo facciate perché credo che se si è un po' meno convinti quando si fanno le cose riescono meglio. 800 24 0024 349 238 6666. È partita tutto come definirla? Un turbine sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui, sul fatto che non esistono mestieri inutili, che qualsiasi lavoro uno faccia, in fondo, se serve a qualcuno o a qualcosa, quel mestiere lì è utile. Ecco, non è esattamente questo il discorso. È chiaro che tutti i mestieri sono utili, è chiaro che tutte le cose servono perché innescano un'altra cosa, che ne fa innescare un'altra che porta a qualcosa di più o meno utile per la società o per le persone. Detto questo, però, alla fin fine, io ad esempio mi sono messo la mano sul cuore tempo fa e lo so benissimo che faccio un lavoro senza il quale la gente potrebbe vivere comunque. Non faccio il medico, non faccio il panettiere. Quindi se avete voglia di condividere questa sensazione, secondo me un pochettino poi si vive meglio e le cose riescono anche meglio se si è meno convinti. 800 24 00 24, 349 238 6666. Come Domenico, che mi ha scritto: sono un poliziotto, fare il turno di notte in stazione quando la stazione è chiusa e non passano i treni è il lavoro più inutile che esista. Maria Lucia: un lavoro inutile io l'ho fatto per 2 anni ed era insegnare l'italiano a ragazzini che italiani non sono più e a cui questa strana lingua proprio non interessava. Ma i corsi organizzati dai consolati italiani per i figli degli emigrati, Maria Lucia mi pare che abiti in Belgio, se non ricordo male, a Bruxelles, insomma, quei corsi sono fermi didatticamente e psicologicamente agli anni 50, perché ti impongono di insegnare l'italiano come se fosse la prima lingua a ragazzi che italiani non lo sono più, che non hanno mai parlato italiano a casa, al massimo la lingua regionale dei nonni, e che sono cresciuti in un ambiente francofono fiammingo, appunto il Belgio. Cosa ancora più inutile, spesso e volentieri, senza nessuna programmazione didattica, è il trionfo dell'inutilità. 800 24 00 24, 349 238 6666. Mi spiace, devo rispondere alla prima persona che ha scritto agli sms, al numero che vi ho appena dato. Mi ha scritto addirittura prima della diretta, il messaggio era: basta col teatro, giuro mi taglio le vene. mi dispiace per te, prepara la lametta, perché purtroppo il patto è quello. Vi racconto quello che sto facendo nella mia vita e quello che sto facendo in questi giorni è questo. Non so ancora per quanto, però quello che faccio è proprio ha a che fare col senso di inutilità che mi è salita qualche mattina fa mentre provavo a fare anche quel mestiere lì. Se avete voglia di condividere questa sensazione, se anche voi ogni tanto la provate, vi assicuro che è liberatoria. Sì, è vero, anche il mio lavoro è inutile. Pronto? Ciao Matteo, sono Antonio. Antonio? Sì, dai, l'unico regista che è stato capace di farti recitare. Ehi, hey, Antonio, ciao, come stai? Ma benone, ogni tanto ti sento in radio. Tu come stai? Sì, bene, grazie. Guarda, tra l'altro so che si dice sempre così, ma l'altro giorno mi sei venuto in mente perché l'altra sera sono andato a teatro dopo una vita che non ci andavo. Ma dai, cos'hai visto? Bah, guarda, una roba inguardabile. Tu invece cosa stai facendo? Guarda, io ti chiamo proprio per questo. Riprendo uno spettacolo teatrale che ho fatto l'anno scorso. Sì. E devo sostituire un attore che adesso sta facendo un altro lavoro. Sì. Guarda, secondo me la parte per te è perfetta. Cosa ne dici? Ci stai? Hai voglia? Insomma, è andata così. L'ho pensata ed è accaduta. Dopo che mi sono riavvicinato al teatro, dopo che ne ho parlato con Natalie, ho ricevuto la telefonata di un regista con cui avevo lavorato. E mi è sembrato sbagliato fare finta di niente. Quindi ho accettato l'invito per andare alle prove. E così l'altra mattina, prima di venire in radio, sono passato in questo teatro. Antonio mi aveva mandato via mail il testo dello spettacolo, ma io non l'avevo letto tutto. L'ho iniziato una sera dopo cena, mi è venuto sonno e ne ho letto praticamente metà. La storia non è male e il mio personaggio sembrerebbe divertente. Quando sono entrato in teatro l'altra mattina erano già tutti seduti intorno a un tavolo in mezzo al palco. Sono arrivato e Antonio mi ha presentato agli altri. Tranne un tipo che mi ha salutato come se mi conoscesse, però mi pare di non averlo mai visto, gli altri non li avevo mai sentiti nominare. Senza troppo cincischiare, ci siamo messi seduti al tavolo e abbiamo cominciato a leggere. Fortunatamente il mio personaggio entrava dopo un po', così ho potuto vedere che cosa facevano gli altri. Di fatto si trattava di una lettura, una roba piuttosto neutra. Io era da un sacco che non mi sedevo intorno a un tavolo con degli attori per leggere un copione e mi sentivo un po' fuori luogo. Tutti leggevano quello che c'era scritto cercando di dare un po' di colore a ciò che dicevano, che visto così non sembrava un mestiere complicato. Tranne un tipo che aveva un vocione che sembrava Dio quando lo senti parlare nei film, gli altri parlavano come si parla nella vita, forse un po' affettati, comunque credibili. Dopo circa 40 minuti arriviamo al punto in cui devo entrare io. Io mi sentivo come uno sciatore impreparato al cancelletto di partenza. Uno che non si è mai nemmeno allacciato gli scarponi e sente il cronometro scandire i secondi che mancano al via. E in più, la mia prima battuta era un monologo. Poi a un certo punto quello con il vocione che sembrava Dio mi ha detto: «Ma mi dica, che cosa pensa lei di me?» Eccoci. Era arrivato il mio turno. Ho fatto un bel respiro e ho attaccato il pippone. Penso, Ermolai Alexei, che siete un uomo ricco e che diventerete presto milionario. Come nell'ordine della natura è necessaria la bestia feroce che mangia tutto ciò che incontra sulla sua strada, così sei necessario anche tu. L'umanità si evolve, perfeziona le proprie risorse. Ciò che oggi sembra irraggiungibile un giorno sarà accessibile. Chiaro, bisogna solamente lavorare, aiutare con tutte le proprie forze quelli che cercano la verità. Da noi, in Russia, per il momento sono in pochi a lavorare. La stragrande maggioranza di quell'intelligenza che dico io non cerca un bel niente, non fa niente. E di lavorare, oggi come oggi, non è capace. Si definiscono intelligenti, danno del tuo alla servitù, i contadini li trattano come bestie. Studiano male, non sanno leggere sul serio, non muovono un dito. Di scienza sanno solo blaterare, d'arte non capiscono un accidente. Sono tutti seri. Hanno tutti i visi compunti, non parlano che di problemi fondamentali, di filosofia. E intanto, sotto gli occhi di tutti, gli operai fanno la fame. Dormono senza cuscini fino a 30, 40 in una stessa stanza. Le pulci dappertutto, puzza, umidità, deprivazione. È chiaro che tutti i nostri bei discorsi servono solo a gettare fumo negli occhi a noi stessi e agli altri. Fatemi vedere i nostri giardini d'infanzia di cui tanto si parla, le sale di lettura. Nei romanzi forse esistono, in realtà neanche uno. Non c'è che sporcizia, volgarità, fatalismo. Io ho paura e non sopporto le facce troppo serie. Mi fanno paura, i discorsi seri. Faremo meglio a stare zitti. Sì, io lo so che nell'immaginario collettivo le prove di uno spettacolo sono una delle cose più belle che ci siano. Sì, forse ho esagerato. Cioè, una delle cose più belle che ci siano forse è troppo. Però, se dico che tutti vorrebbero vedere che cosa sta dietro la preparazione di uno spettacolo, non è che è proprio una stupidaggine. Ecco, tutto questo per dire che invece io mi sono annoiato a morte. Dopo 3 ore di lettura del testo, Antonio ci ha chiesto di provare qualche scena in piedi. In piedi vuol dire sul palco. A un certo punto ha detto che voleva che improvvisassimo, che tanto di cosa parlava la scena più o meno lo sapevamo tutti. Ci ha detto di tenere il copione in mano e di non preoccuparci se le parole che dicevamo non erano esattamente quelle del testo. La prima scena l'hanno fatta i 2 attori protagonisti. Io mi sono messo in platea e li ho guardati provare. Ecco, e lì, mentre lo facevo, improvvisamente ho iniziato a interrogarmi su che senso avesse tutto quanto. Quello che stavamo facendo di sicuro non avrebbe cambiato il mondo. Sì, ok, poche cose lo fanno. Eppure tutti si prendevano terribilmente sul serio. Io lo so che qualunque cosa uno faccia, un senso glielo deve trovare per forza, però il problema è che lì pareva che tutti i destini delle persone che si trovavano lì dentro dipendessero solo dal lavoro che stavano facendo. Cioè, se uno non si ricordava la battuta esatta, si arrabbiava manco fosse stato il principale responsabile della morte di sua madre. Dopo altre 2 ore di tedio, la prova è finita. E nonostante l'unica cosa che volevo era scappare, prima di venire in radio sono andato a pranzo con tutti gli altri in un locale vicino al teatro. Mangiando toast farciti e bevendo Coca-Cola li ascoltavo parlare male dell'unica persona che non c'era, che poi era Antonio, il regista. Dicevano che sì, era bravino, però le sue idee erano un po' banali. Alla fine del pranzo, dopo aver passato in rassegna distruggendoli tutti i nomi del teatro italiano, si sono messi a parlare di un regista russo, che sembra essere l'unico veramente capace di fare questo mestiere. Io ho salutato e sono venuto qui in radio. Avevo la sensazione di non avere prodotto niente, eppure ero stanco. Il discorso è quello: il panettiere fa il pane, i parrucchieri tagliano i capelli e l'elettrauto fa un lavoro che ancora non ho capito bene che cos'è. E io, invece, che cosa ho fatto? Tutte le mattine quando mi alzo mi vergogno del mio aspetto. Ho dimenticato di telefonare a Dunia, poi ci penserò. Con le cispie agli occhi sparo a 4 mucche e bevo come un pazzo. Oggi mi domando come ieri, come mai mi sento in colpa. Tutti i brani che mandiamo a Io Sono Qui li trovate chiaramente sul sito di Radio 24, alla pagina Io Sono Qui. La trovate, si accede, no? Dall'home page, programmi, o forse ogni tanto Valeria e Francesco mettono addirittura proprio Io Sono Qui sulla home page. 800240024. E invece arrivano dei messaggi prima di prendere una telefonata. Allora, nel senso che Focus Economia va in onda alle 17, però qualcuno evidentemente si porta avanti. Mi scrive Barisoni, almeno lei, la prego. Perché nessuno dice che qualsiasi ripresa ci sarà, ebbene sarà con occupazione scarsa o nulla. E questa era per Barisoni, poi glielo giro. E poi dice: grazie Matteo, faccio modelli per vestiti e tanti anni fa, di fronte alla mia paura di sbagliare un vecchio modellista in conforto a Cento Fiorentino, alzò le spalle e mi disse: de, un si sta mica facendo la Cappella Sistina. Ecco, questa è esattamente la filosofia del faccio un lavoro inutile, ma alla fine lo faccio, cerco di farlo bene uguale. Più che inutile il dov'è? Più che inutile il lavoro, è inutile farlo per 8 ore al giorno, basterebbe la metà, 4, ma lavorate sul serio poi a casa con famiglia o per i fatti propri, dal manager al portinaio. Utopia? Ciao Roberto, non credo, c'è addirittura un libro che si chiama 4 ore di lavoro a settimana, però bisognerebbe credo eliminare Facebook. L'unico lavoro inutile è il trader, è un po' una gara a chi ha il lavoro più inutile. Ho fatto la sciantosa napoletana per un anno di repliche, entravo in scena cantando, un incubo, ho smesso. Ciao Betty di Torino. Poi oggi mi è arrivato un messaggio di un ascoltatore che si chiama Adil o Adil, che dice che da una settimana sta facendo un lavoro inutile per conto della Converse, quelle che fanno le scarpe. Non ho capito bene e quindi me lo faccio spiegare da lui. Pronto Adil? Ciao Matteo. Ciao, senti, il tuo nome si pronuncia esattamente come? Adil. Adil, perfetto. Di dove sei? Che origine hai? Io sono marocchino. Ah, ok. Da quant'è che sei in Italia? Da 7 anni. Senti Adil, raccontami del lavoro inutile che stai facendo. Tu stai timbrando il codice cliente su delle scarpe, giusto? Sì. Ma... pronto Adil, ci sei? Sto timbrando un codice. Sì? Su delle scarpe per una multinazionale per il conto di una catena di negozi. Ok, ma perché lo stai facendo? Così la catena non può venderlo a un altro cliente. Quindi se un cliente ha voglia di questo marchio, sì? Viene direttamente alla ditta a prenderlo. Scusa, ma tu sei un commesso, Adil? Scusa? Tu sei un commesso, lavori per questa catena di... Io lavoro per esterni, per questo tipo. Ok, allora senti, provo a riassumere perché ancora non mi è chiarissimo. Tu stai timbrando il codice cliente di questa catena di negozi di abbigliamento sportivo su una marca di scarpe sportive che poi è la Converse, perché fondamentalmente la Converse non ha fiducia in questa catena di negozi e ha paura che la venda ad altri, quindi mettendo il timbro può venderlo solo nei suoi negozi. Oh, ci sono arrivato, eh? Hai visto, non sono barisoni, ma pian piano sono arrivato al dunque. Senti, da quanto lo stai facendo? Da una settimana? Da una settimana e c'è un lavoro per un'altra settimana. Però, per 8 ore al giorno? 9. 9 ore al giorno? Senti, dove glielo metti il timbro? All'interno o sulla suola? Vicino al barcode. Vicino al barcode, ok, perfetto. Senti, tu sei assunto, quindi c'hai buoni pasto, c'hai le ferie pagate? Ma no, buoni pasto, ferie pagate no, no. Andiamo oltre. Quanti anni hai, Adil? Ho 29 anni. E di dove sei? Stai a Bassano del Grappa, mi hai detto. Bassano del Grappa, sì. Ma abiti lì da quando sei arrivato oppure ti ci sei trasferito? No, dal 2003, sì, dal 2003 che abito a Bassano del Grappa. Ho una bambina di 6 anni, per cui sono qua da 7 anni. Va bene, Adil, ti ringrazio moltissimo e ti lascio tornare al tuo lavoro, perché lo stavi sì, facendo, giusto? Ma che fine ha fatto la tua ragazza? La mia ragazza sta bene e diciamo ogni tanto le piace che io racconti di lei, ogni tanto un po' meno, ma non ti preoccupare. Appena si torna a parlare di Nathalie avrai le sue notizie. Grazie a te. Grazie. Ciao, buona giornata. Buon ciao, lavoro, grazie. 800240024 349-238-6666. Adesso la borsa e poi io sono qui. Se il vostro lavoro fosse altrettanto senza senso non finireste anche voi un po' fusi? Io l'ho conosciuto un operatore didattico, l'inutilità in persona. Vede? Ragazzi, è importante un lavoro che ti faccia sentire gratificato. Io, ad esempio, masturbo manualmente gli animali per l'inseminazione artificiale. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo probabilmente in una cucina. Non saprei dirlo perché la foto è un dettaglio molto molto ristretto. Ci sono dei dolci nella foto, ci sono dei dolci che visti così potrebbero essere dei bignè, però io non credo che siano dei bignè, io voglio essere convinto, voglio credere che dietro a questi bignè ci sia una storia, che parla di un posto, di una località, di una tradizione, un po' la tipica tradizione regionale italiana. Angela Palmerio, ho 39 anni, sono di Guardia Grele. Le fife delle monache sono per me un po' casa e non è solo perché si fanno esclusivamente del mio paese, ma perché mi ricordano le cime innevate della Maiella che posso ammirare dalle finestre di casa mia. Io sono qui. Le sise delle monache. Chiunque sappia come si fanno e cosa c'è dentro, credo ci sia della crema o della marmellata, o non lo so. 349-238-6666. Continua la fiera dei lavori inutili. Oscar Wilde diceva che l'arte è inutile, sì. Vado in Bulgaria a installare un ponte radio per cabine di monitoraggio ambientale in una zona dove un monte divide il trasmettitore e il ricevitore e quindi non farà funzionare nulla. Che dite? Abbattiamo i Balcani? No, questo credo di no. Più di così, Andrea De Genova. Andrea, direi che sei veramente in testa. Susi mi scrive: beh, ma allora in base alla tua premessa i lavori inutili si contano sull'ita di una mano. Più o meno sì. Lavoro il vetro e oggetti getti lavoro, il vetro, oggetti e vetrate artistiche, credo proprio che siano inutili. Roberto da Bergamo, e secondo me Roberto le fa magnifiche le vetrate in vetro lavorato. Andiamo però, oggi tutti abbassano del grappolo, i lavori inutili tutti abbassano il grappolo sono. Andiamo da Davide, pronto Davide? Pronto. Ciao, buongiorno, senti, tu mi hai scritto questa cosa: installo depuratori ad osmosi inversa. Esatto. Decidi tu se è utile o no. No, dimmelo tu se è utile o no. Utile sì, però voglio dire, l'acqua la compri anche in negozio, alla fine non è che sia così. Facciamo un passo indietro, Davide, scusami. Che cosa sono i depuratori a osmosi inversa? Sono quei depuratorini che si mettono sotto il lavandino, sotto il lavello, depurano l'acqua fredda del lavandino e l'acqua, sì, è buona, per carità, è più buona di ma sono quelli che assorbono il cloro? Non solo, tutto, calcare, cloro, tutto, l'acqua è più buona assolutamente. Ma sì, tu sei un idraulico quindi? O... assolutamente, sono un perito informatico, che sono finito a fare questo lavoro qua in una maniera. No, non ho capito, scusami, tu diciamo sei preparato come un perito informatico ma esatto. Installi depuratore esatto. Ad osmosi inversa. Esatto. Ma li vendi e li installi? No, la mia ditta li vende, io poi vado dal cliente, li installo, faccio il cambio dei filtri e queste cose. Ed è una ditta italiana oppure li compri? Sì, di Verona. La ditta è a Verona, io sono di Bassano e vado spesso a Modena, quindi proprio... Ma quindi li producete proprio? In Italia o all'estero? Sì, a Cittadella di Padova li producono. E c'è richiesta per depuratori a osmosi inversa? Io spererei che un po' meno, perché sono sempre, lavoro 14 ore al giorno, quindi mi piacerebbe essere a casa con la moglie e il figlio che arriva. Quando arriva? A settembre. Senti, quanto costa un depuratore a osmosi inversa? Dipende dalla bravura del cliente e dalla bravura del venditore. Ma dai, dimmi. 2.800 euro circa. Ma scusami, quanto è grosso? Cioè, ma lo metti, non ho capito. 2.800 euro una roba che applichi sotto lavandino? Esattamente. Ok. Però ha una sua utilità. Ha una sua utilità, però voglio dire, se vai alla fine posso andare a comprare al supermercato l'acqua, non è che muoio sempre. Certo, ok, diciamo. Perché lì l'utilizzo, è lì che dico, decidi se è utile o no. Senti Davide, io spero che tu sia il capo, altrimenti ti licenziano. No, io sono il dipendente, anche se insomma è una ditta molto familiare, quindi anche col capo c'è un bel rapporto. Ok, va bene. Ma poi non ascolta Radio 24, quindi non c'è problema. Perfetto, ok. Davide, grazie mille, buona giornata. A te, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Andiamo in tutt'altro genere di lavoro, andiamo a Piacenza da Anna Maria. Pronto Anna Maria? Pronto, ciao. Ciao, buongiorno. Tu che cosa fai di mestiere? Io faccio la cantante, lirica. Quindi sei soprano? Mezzo soprano. Non è la metà del soprano, vabbè, ma tanto poi nessuno lo sa che cosa faccio, va bene. Ma che differenza c'è, scusami, tra il soprano e il mezzo soprano? Ma il mezzo soprano ha una voce un pochino più, che forse fra le donne è più difficile trovare, nel senso che ha la voce un pochino più scura, più vicina a quella dell'uomo. Senti, e tu da quant'è che fai questo lavoro? Quanti anni hai? Io ho 42 anni e lo faccio da quasi 20 anni. E c'è lavoro in questo periodo oppure? Sì. Ci si dà da fare, si gira, si cerca sempre di studiare cose che gli altri non fanno. Qual è l'ultima cosa, l'ultima opera che hai fatto, Anna Maria? L'ultima opera che ho fatto è l'opera di una persona, di un signore che non è neanche sui libri della storia della musica, che si chiama Vittorio Gnecchi, che è un italiano ma che è stato cancellato dalle storie della musica perché poverino ha scritto un'opera che ha donato a un famosissimo autore che era Richard Strauss, che poi l'ha in qualche modo copiata, e lui, siccome Richard Strauss era lui, era il più famoso, ha impedito al signor Gnecchi di comparire nei teatri. Certo. Senti, invece tu hai un repertorio per quando vai a fare i provini e le audizioni? Io fortunatamente comincio a non farle più le audizioni, quindi mi chiamano, scusami. Mi conoscono e vado direttamente. Sì, ho un repertorio che spazia dall'Ottocento fino al Novecento compreso tutto. Ma tu ad esempio adesso se io ti chiedessi una roba orribile, che tipo di farmi un pezzettino, me lo faresti oppure no? Io sto andando a lavorare adesso, oltretutto, alle 5:30 ho una prova. Hai prova? E che cosa? Sì. Fammi il pezzo che provi oggi. Oddio mio, no, è in tedesco, sarebbe un po'... Ma meglio ancora! Ma ti pare che gli ascoltatori di Radio 24 non sanno il tedesco? Scusami. Oddio, dici? Adesso aspetta che non mi viene in mente cosa. Però sì, sono quattro leader di Mahler. Vabbè, sì. Adesso dirvi così sarebbe... Vabbè, ma tipo... Vabbè, diciamo che l'hai usata per scaldarti la voce, Anna Maria. Ti ringrazio molto e in bocca al lupo per le prove e per lo spettacolo. Grazie. Ciao, ciao, buona giornata. Mille, ciao. Andiamo, c'è tempo, sì. Andiamo a Modena da Giorgio. Pronto, Giorgio? Sì, pronto, ciao. Ciao, buongiorno. Senti, tu buongiorno vendi cose che costano molto ma che servono a poco, mi pare di capire. Direi che servono a nulla, perché vendo arte, vendo gioielli, vendo quadri, vendo cose di questo genere qua. E che costano molto, cosa vuol dire? Vuol dire che costano svariate migliaia di euro. Senti, sono opere che però questo valore ce l'hanno? Cioè, ha un senso che abbiano questo valore oppure... È il mercato che lo fa, ovviamente sì, ha un senso che abbiano questo valore, però chiaramente non è un chilo di pane, ecco, voglio dire, non servono per mangiare. Certo, ma senti, vengono usati come, certo, le scarpe servono, il teatro no, insomma, la filosofia esatto, è sempre quella. È proprio per quello che ho telefonato, peraltro. Senti, tu semplicemente li commerci, giusto, non li possiedi? No, io lavoro per un'azienda chiaramente a livello nazionale, importante, che ha una serie di artisti che lavorano per lei e che fa anche cose in proprio, e quindi chiaramente vado a venderle a chi è interessato. Dimmi qual è la cosa più costosa che hai venduto? Ma la cosa più costosa che ho venduto è un libro d'arte che costa 28.000 euro, poi magari ho fatto delle abbinate con dei quadri che costavano anche di più, ma quelli erano pezzi unici, quindi magari non ne parliamo neanche. Va bene, Giorgio, grazie mille, buona giornata. Ok, ciao. Ciao, alla prossima. Ciao. Chiudiamo con qualcuno che sta facendo un'opera d'arte al volo, andiamo da Oscar di Milano. Pronto, Oscar? Sì, ciao Matteo. Ciao, a proposito di cose utili o inutili, tu stai dipingendo che cosa esattamente? Sto dipingendo tre cipolle. Questa mattina ero al mercato sotto sì. casa, ho visto tre cipolle, delle cipolle che mi piacevano, e ne ho scelte tre, una bianca, una quel rosso indiano e una violacea, penso sì. europea. E ho creato la composizione. Cioè, questa, perdonami, fammelo dire per una volta, non lo dico dai tempi sì. delle scuole medie, questa è una natura morta. Certo, oh. ma la natura morta. Senti, tu cosa fai? Però, perfettamente tu, inutile. Tu ci, perfetto, sono d'accordo con te. Tu ci vivi con questa cosa, però, il tuo mestiere. Sì, io ci vivo con queste cose. E nel senso queste che poi. Cipolle alle automobili. Ci sarà qualcuno che comprerà questa natura morta con le tre cipolle? Sì, è molto probabile, perché queste nature morte sono molto apprezzate per le cucine, soprattutto quelle tipo un po' stile country. Sì, sì, sì, sì, old style. Prima o poi qualcuno a qualcuno gliela rifili. Oscar, sì, sì. ti ringrazio molto, ti auguro una buona giornata. Grazie. Ciao, alla prossima. Ciao. E poi mi è arrivato un messaggio che mi diceva così: ciao Matteo, io faccio il lavoro più inutile del mondo, ma non per il mondo, per me, per la mia mente e il mio corpo. Ho provato, come hai detto tu ieri, a pensare che mi arrivasse una telefonata, farlo intensamente per farmi cambiare lavoro, ma non sono stato fortunato come te. La telefonata non è arrivata. Ecco, a questo proposito, io vorrei fare un attimo un passo indietro. Chi conosce il segreto può ottenere ciò che vuole. Felicità, salute, ricchezza. Si può essere, avere o diventare ciò che si vuole. Si parla di un segreto. Possiamo avere tutto quello che vogliamo avere. Si parla non di un libro. Che tipo di casa vorreste avere? Volete diventare milionari? Certo. Che cosa vorreste occuparvi? Volete avere più successo? Che cosa volete realmente? Ieri mi è arrivata una telefonata in cui mi si parlava di questo libro che si chiama The Secret. Poi io devo dire la verità, non lo conoscevo, se non perché l'avevo visto al supermercato e all'edicola sotto casa. E avevo fatto la tipica cosa che non si deve fare, cioè dare un giudizio senza conoscere la cosa. E in realtà avevo fatto molto bene a farlo, perché poi ci siamo informati insieme a Tiziano e abbiamo scoperto questa cosa, che questo è un libro da cui poi è stato tratto un film, o forse è il contrario addirittura, un film da cui è stato tratto un libro, che ha a che fare con queste cose New Age, che devo dire in sé non fanno male a nessuno. Io però credo che ci siano delle persone che sono un po' più deboli e delle persone che sono un po' più forti. E se le persone che sono un po' più forti si inventano una puttanata per semplicemente per cercare di averla la meglio sulle persone che sono un po' più deboli, ecco, diciamo, questo un pochettino a me fa girare le palle. Voi probabilmente vi starete domandando qual è il segreto. Siamo dotati tutti dello stesso potere. State pronti, eh? Quello della legge di attrazione. Eccola qui, la legge di attrazione. Il segreto è la legge di attrazione. E due. Ecco, il segreto era la legge di attrazione. Io mi sono detto, ma quale sarà questo segreto? Era quello della legge di attrazione. Io ringrazio la legge di attrazione, ringrazio però anche Viola Bottoni, Paolino Corleoni e Tiziano Bonini. Per tutti quelli che avessero ancora voglia di risentire questa puntata, c'è un podcast, altrimenti domani io sono qui.